guidato da una luce candida, un sentiero da tenere. Seguo sempre quella luna pallida, le tue tracce fluorescenti, quell'inedito racconto che sei tu. Qui non posso più cadere, anche fosse vedo il mondo a testa in giù. Non è detto che sia peggio, un raggio di sole che ho atteso mi sfiora, lo sai, e caccia le ombre dal muro. È il tempo di noi, è il tempo di noi, è il tempo di noi. La tua casa in mare aperto, con un'isola vivibile per me, vado a braccio col mio tempo, canto un verso da dividere con te, pianto qui le mie bandiere, mi arruffiano il cane calo l'ancora, dai versiamoci da bere. Antipasto di una cena atlantica, guarda, inizia un altro giorno, il suono di un verbo al futuro che parla di noi. Ricordo di avertelo detto col senno di poi, quel viaggio che arriva se vuoi.